Radio Radicale torna in libreria Istinto di morte e conoscenza, un volume che 40 anni fa uscì per la prima volta, scritto, firmato da Massimo Fagioli, un nome, una personalità che conosce chi ascolta Radio Radicale, psichiatria, psicanalisi e soprattutto una teoria rivoluzionaria che poi segnò molto nella storia di questa disciplina nel nostro paese e anche nella storia della cultura. Ormai è un testo, diciamo, fondamentale per una parte della storia italiana e della storia della cultura italiana. Allora, professor Fagioli, intanto perché ha deciso di tornare anche con una nuova prefazione a far uscire questo volume? Questa è la prima domanda che chiede una risposta un po' difficile. Discorsi, manifesti, difficile dire, però io con quello che vedrei, cercare una giustificazione, il discorso manifesto, la cosa sarebbe che due nuovi editori hanno voluto prendere in mano questa situazione, questo volume, queste anche le mie opere, eccetera, eccetera, per rilanciarle di nuovo, eccetera. Motivo è quindi i due editori. Il secondo motivo, non so che dire prima. Prego, cominciamo. Se dire prima, la cultura. Qui stiamo notando che deve essere in questi 40 anni, dopo 40 anni, modificata la cultura. Quella che era 40 anni fa non è più quella di adesso, è passata. Quindi è successo questo fenomeno che il volume, pur essendo una 13ª edizione, in verità viene letto, visto e vissuto come se fosse un libro nuovo. E forse è lì ci ho messo quella che si chiama l'appendice, la violenza invisibile, intitolata sì, quelle 7-8 pagine, 7-6, la violenza invisibile per dire che non è più esattamente lo stesso. Questo dovrebbe essere anche il linguaggio della nuova veste tipografica, che è cambiata nel colore, è stata rifatta, eccetera. Andando oltre, diciamo che io penso che la motivazione di questa cosa dopo 40 anni è la storia dell'analisi collettiva. La storia dell'analisi collettiva, cioè questo mistero, ecco il mistero, difficile la risposta, di una massa di persone anonime che sono venute, si sono interessate, hanno lavorato, hanno accettato questa cosa che ha fatto sempre paura da millenni, la cura, non la cura del fegato, non la cura del corpo, quella ormai nel corso dei secoli, anche se c'è voluto del tempo, è stata accettata. Quello che non era stato mai accettato, non è tuttora accettato, è il discorso della cura della mente, la cura del pensiero, che implica ovviamente che ci sia questa terribile parola, malattia della mente, malattia del pensiero. E questo forse, ecco, altra motivazione, che forse quei tempi lontani ancora non era evidente, e bisognerebbe fare la storia di come è cominciata la storia così, da giovane psichiatra, da scelta di fare medicina per fare psichiatria, e cominciò come ricerca e fatto medico, in special modo sulla psichiatria, che quella volta non si chiamava psichiatria, si chiamava addirittura neuropsichiatria, perché l'idea prevalente era che si trattava di malattia del corpo, insomma malattia del cervello, malattia del sole, si metteva sullo stesso piano una, quella che viene definita malattia mentale, con l'emorragia cerebrale, con la trombosi cerebrale, malattie, cioè, che riguardano quella che adesso si chiama neurochirurgia. Soltanto nel 76 fu separata la parola psichiatria, la specializzazione, in neurologia. E qui ecco l'altra cosa che già hai detto, quindi se ci avessi idee chiare, se hai capito. Bisogna considerare che nel dopoguerra erano configurate delle situazioni, delle realtà. Dopo il fascismo, il nazismo e tutta questa storia dei primi 30-40 anni del secolo, queste due grandi realtà politiche, che però erano anche culturali, la realtà politica, che addirittura in Italia è quasi il riflesso di quello che c'era nel mondo, da una parte la Democrazia Cristiana, da una parte il Partito Comunista, come nel mondo c'era la opposizione tra Stati Uniti, ovviamente, in Russia, e quindi questo cosa del comunismo. E io ho detto tante volte, raccontato anche a Radio Radicale, e invece non mi sono messo in mezzo, ecco, appunto, non ho accettato né l'una né l'altra sintassi politica, ma nemmeno cultura, con tutta l'elaborazione, ovviamente, delle idee, dei pensieri con gli autori e così via dicendo. E cominciai a fare il fatto medico di cercare la malattia mentale probabilmente detta, nonostante che a quei tempi ci fosse soltanto cura di Sacher, cioè l'insulinoterapia che mandava in coma i pazienti, e poi si faceva la scena del risveglio come se fosse una risurrezione dalla morte, eccetera, eccetera. L'elettroshock, e poi arrivarono proprio i farmaci, cioè era tutto un discorso organico, eccetera. E allora io invece mi opposi, e questo forse non è male dirlo, perché tante volte l'abbiamo detto, contemporaneamente c'è stato un movimento politico e diciamo pure anche culturale, sì, perché no, di opporsi di sì, tra questi due Moloch che c'erano e ci sono stati fino a pochi anni fa, fino a qualche decennio fa, e con questa area politico-culturale, che non so come chiamarla, su mettere insieme queste, ecco, lavorare con le parole di mettere insieme queste due cose che non sono state mai insieme, socialismo e liberale, liberal socialismo e così via dicendo, perché dopo la rivoluzione francese, appunto, che era liberale, c'era questa, si comparvero i primi movimenti del socialismo da Proudhon, Fourier, Saint-Simon, eccetera, eccetera, e in cui si divise in massimalista e riformista, cosa che è durata fino a tutto, forse, che c'è, riusciva a mettere insieme, e questo fu, cioè, socialismo e libertà, perché poi il socialismo si era sviluppato col discorso della uguaglianza, ma uguaglianza senza libertà, non c'era nessuna libertà, e la libertà era dall'altra parte senza nessuna uguaglianza. Per cui andiamo da Berlusconi ai call center con 500 euro al mese, questo è chiaro. Invece si trattava di comporre questa, riuscire a comporre una realtà umana, una realtà sociale, senza che ci fosse questa scissione, contrapposizione diretta da l'uno e l'altro. E qui è lì, forse, questo forse lo dobbiamo un po' rubare al comunismo, nel senso che se nel liberalismo non c'era nessuna idea di realtà e di trauma umana, voglio regalare al comunismo un'idea di occuparsi di identità umana, anche se però l'identità umana è stata poi, con la svolta di Lenin in particolare, ma già il difetto c'era in Marx, soltanto un'identità umana come ragione, che era la stessa dei liberali, che poi si basavano appunto su quell'antica, antichissima identità umana, che era quella greca, quella dei filosofi greci, quella del passaggio tra la mitologia, i presocratici e Socrate, che avevano stabilito che tutto ciò che era identità umana era la ragione, fuori dalle ragioni, che era, loro dicevano, l'animalità, cioè un essere umano non riuscito. E io invece, immediatamente, dopo 2 o 3 anni, ho fatto clinica psichiatrica, e avevo scoperto quella certa cosa che, la percezione rilevante, ma su cui non mi soffermo, perché insomma il discorso sarebbe un po' complicato, insomma fatto si è che immediatamente dopo 5, 6, 7 anni di psichiatria ospedaliera con la malattia mentale, affrontando appunto la malattia mentale, già lì cominciavano a comparire, uno, il discorso della psicoterapia, e in particolare il discorso di occuparsi di quell'altro mondo, che è il mondo della senza coscienza, del pensiero senza coscienza. E già io dico questo come se fosse una cosa facile. In verità non era facile, perché tutti avevano sempre detto da migliaia di anni che il senza coscienza non era affatto pensiero. Era pazzia, cosa che tuttora viene sostenuta dai filosofi moderni. O non se ne occupano affatto, oppure la chiamano pazzia, eccetera. Dall'animalità è andato alla pazzia, passando attraverso l'idea cristiana del male, cioè il male, cioè la cattiveria, in tutto ciò che non è ragione e coscienza, e poi appunto questo che viene convalidato adesso negli ultimi decenni, cioè che, contrariamente a quello che aveva detto Paolo di Tarso, la religione cristiana è una religione razionale. E quindi ragione e religione non sono più in contrasto, come aveva detto, aveva voluto dire per metà l'illuminismo, di dire che la religione è un fatto privato, se ne stia a casa sua. E la ragione è quella che interessa alla società. Ragione, per conto suo, sono due cose separate. Adesso no, non sono due cose separate. Avrete sentito anche il Ratzinger attuale, e conferma, cioè, la cosa risale all'anno 1200 con San Tommaso, quando ci fu questa scissione tra San Tommaso e San Francesco, che erano dei due ordini francescani e domenicani, eccetera, in cui appunto nell'ambito di San Domenico e San Tommaso si proponeva un discorso di identità cristiana, religiosa ma razionale, mentre con San Francesco c'era il discorso dell'identità umana come misticismo, come rifiuto del mondo, eccetera, per l'ascetismo, eccetera, e così via dicendo. Allora, accadde che appunto mi trovavo immerso, ovviamente come tutti, in culture di questo genere, movimenti di questo genere, in cui c'era la negazione, questo bisogna dirlo anche, del mondo in corso. La negazione è ancora più subdola, ancora più sottile, per il semplice fatto che c'era stata la psicanalisi, ma questa faccenda della ricerca sull'inconscio a partire dall'ipnosi, però era una storia che era completamente fuori dall'ambiente medico, dalla cultura medica e ancora di più dalla cultura psichiatrica. Non era seguita da un gruppetto di persone, tanto è vero che non chiedevano nemmeno che fossero medici né che fossero psichiatri, che stavano per conto loro nei loro studi privati e che seguivano delle persone. Quando nel 63 venni a Roma e andai all'Istituto di Psicanalisi, c'erano 4 persone anche messe piuttosto male mentalmente, non entrava in quella cosa lì. Però in ogni modo, perché questa ricerca sull'inconscio, di fatto la psicanalisi non l'aveva mai fatta. C'era un discorso che io chiamo, mettiamolo pure tra virgolette, schizofrenico, cioè, allora io ho scoperto l'inconscio, dice il signor Freud, e l'inconscio è inconoscibile. Dico, scusa, allora se è inconoscibile, come fate a scoprirlo? Se l'hai scoperto, non può essere, è conoscibile, se no, non l'hai scoperto. No, se ne sa dell'esistenza, ma non si scopre, nel senso è sconosciuto, e risalendo alla parola di Schelling, il filosofo idealista tedesco, che l'aveva chiamato Das Embost, tutto ciò che non era coscienza. Io invece mi puntai e mi buttai a dire: io voglio conoscere l'inconscio, voglio conoscere l'inconscio, e mi misi con tanto di lettino, eccetera, eccetera, a fare quella che si chiama la mia brava analisi personale, per vedere quello che dicevano, diceva sto pensiero senza coscienza particolare nei sogni, perché è il pensiero notturno, il pensiero del sonno. Cioè, tutti avevano detto che non c'era pensiero, che era addirittura pazzia, e io sono andato a vedere invece che no, non era affatto pazzia, era un linguaggio particolare che non era il linguaggio articolato della coscienza, era un linguaggio delle immagini. La base di questo poi è la base di quello che mi è successo dopo, dagli anni 75 in poi, con quella che è ben nota come analisi collettiva. Ancora una cosa è che all'alba degli anni 60, cominciarono i primi anni 64 in particolare, i moti di rivolta, i moti di ribellione. In modo di rivolta e di ribellione a partire da Berkeley in America per scoppiare in Cina con la rivoluzione culturale, per esaurirsi, mi viene da dire esaurirsi, nel 68-69, soprattutto in Francia, eccetera, oppure nel 69, parlavo molto di questo, molto bene, degli anni 80, e poi no, nell'80 ci fu la grande sconfitta, eccetera, quella viene dopo, la grande sconfitta della massa operaria, ma la cosa finì col Woodstock dell'agosto del 69, nell'ottobre del 69. Questa euforia, e in questa euforia che la libertà, ecco appunto, è felicità, no, la libertà non è felicità, la libertà ce l'hanno le persone, non dico felici, ma sane. Questo grande discorso delle persone malate, io facevo zia, non possono gestire la libertà, e questo avevo convalidato col grande nonno, bisnonno che era Marx, che di fronte alla libertà diceva: ma guardate che l'operaio che muore di fame, o il contadino che muore di fame, della libertà non sa che farsene, proprio assolutamente niente, anzi gli fa pure male. Perché li andavano, gli operai che lavoravano 14 ore al giorno, la domenica a bere l'assenzio e ubriacarsi completamente. Questa area culturale, diciamo, poi dura tuttora in certe frange, in certe situazioni, e andò a, come dire, ad essere coinvolta, oppure no, al contrario. Qualcuno fu coinvolto da questa cosa dicendo che la libertà era anche dei malati di mente, perché in fondo la malattia mentale non esiste. Se esiste, sì, magari esiste, ma è assolutamente inconoscibile e incurabile. Non più l'inconscio, ma addirittura la malattia mentale. Bello, conoscete tutta la storia, ma che stavo pensando, io scoprì che questa era la derivazione di un esistenzialismo, quella corrente filosofica che si chiama esistenzialismo, che potrebbe essere vista come partenza da che cosa? Nel 1848, quando Marx scrisse il manifesto del Partito Comunista. In Danimarca ci fu Kierkegaard che scrisse La malattia mentale. Poi questo esistenzialismo si diramò in Francia con Sartre, Foucault, eccetera, e in Germania con Heidegger in particolare, anche Krull, Alt, eccetera, Heidegger, però in particolare. Contemporaneamente. E questo portò a dire che la malattia mentale è soltanto emarginazione, è fatto fatto, direi, politico, sociale, non fatto di realtà umana. È un fatto politico, sociale, di emarginazione dalla società, coloro che non erano razionali, coloro che non avevano identità come ragione. Però c'era un trucco mostruoso. Il trucco mostruoso era l'irrazionale, era malattia mentale grave. Io non ho mai capito come si sia potuto negare una cosa di questo genere. Quando ci viviamo tutti i santi giorni, quello che fa delitti efferati senza motivo. Siamo arrivati che prima, ai tempi miei, era una volta al mese. Adesso è una volta al giorno, cioè due volte, tre volte alla settimana. Di oggi è quello che ha ammazzato tre persone, una dietro l'altra, semplicemente perché si era arrabbiato, non so, eccetera. Poi ha detto, sono stanco. Mamma mia! Quindi partire da questo assoluto rifiuto di dire che la malattia mentale è solo una cosa per dire, perché è un modo di essere, soltanto è un Dasein, appunto, dietro Biswanger, dietro Heidegger, a portare il discorso che nell'inconscio non c'è solo malattia mentale, come avevano detto, questi volevano dire che nell'irrazionale c'è la malattia mentale, però la persona va lasciata libera. E ora ho sentito un'ultima conferma di quello che dovrebbe essere un collega psichiatra, quindi medico, quindi avrebbe dei doveri di impostazione medica, che invece dice che con il malato di mente, il cosiddetto medico, perché a questo punto io non lo considero più un medico, deve portarlo a accettare di convivere con la sua malattia. A me mi hanno insegnato, non solo all'università, ma da milioni e migliaia di anni, che il medico deve fare del tutto per curare il paziente. Qui viene cancellato completamente una cosa di questo genere. Quindi deve fare ricerca, no. Deve convivere, rassegnarsi che non esiste nessuna, non dico cura, ma nemmeno possibilità di ricerca. Io non lo so che cos'è una storia di questo genere. Questo qui occupò e investì, ormai sono 40 anni. Ecco, per fare così una panoramica naturalmente molto grossolana di quello che era l'ambiente. Certo. Di quello che era l'ambiente 40 anni fa. Di 40 anni fa, 40, anche 30 e anche 20, perché poi non è nemmeno finito, perché questa citazione che ho detto del cosiddetto collega è dell'altro ieri, l'ho sentita alla televisione, che è di una che aveva fatto un servizio sulla Trieste, eccetera, cioè non a priori. Non sono cure che falliscono, dice, non riesce, come è successo tante volte in medicina. No, a priori non c'è la cura. C'è soltanto un'assistenza più o meno sociale o, dico io, religiosa. E basta. No, questo è un delitto. E l'hanno detto in tanti. Senta Fagioli, c'è qualcuno tra il libro, diciamo, e oggi in mezzo c'è stata l'analisi collettiva? Esattissimo. E adesso ci volevo arrivare a dire, poi invece, oltre che me, che poi rifiutando queste cose, avendo vissuto tutti i terreni come l'analisi individuale, la psichiatria esistenzialista, biswangeriana, il Dasein, sono stato da tutte le parti, ho voluto verificare tutto, andare a vedere con gli occhi e con le orecchie come stavano effettivamente le cose, ho scritto Istinto di morte e conoscenza, in cui la mente inconscia ha una sua dinamica ben precisa, e non è vero che l'uomo nasce col peccato originale, non è assolutamente vero che nasciamo tutti cattivi o tutti pazzi, eccetera, e così via dicendo. Esiste una nascita e esiste la teoria della nascita. Dopo aver scritto quello e ho scritto altri due libri sulle dinamiche, eccetera, cominciarono ad affluire queste prima diecine. Nel giro di pochi mesi centinaia, e nel giro di anni hanno circolato a migliaia. Sono venuti perché il rapporto è stato assolutamente libero. abolizione del contratto professionale, per cui uno, moltissimi saranno venuti in anni a fare cura, e, non pagando una lira, eccetera, e così via dicendo, perché non c'è nemmeno contratto, io non conosco nemmeno il nome, è un rapporto a mio interesse, è un rapporto diretto di una realtà umana, la mia, psichiatra, con l'altra realtà umana. E di volta in volta vuol dire che c'è il malato e che non c'è il medico, che di volta in volta si affronta il coso che c'è, grave, non grave, non c'è niente, è una crisi isterica tanto per essere in argomento oppure no, c'è qualcosa di serio e così via dicendo, è chiaro. E Marco Bellocchio ha fatto un bel regalo sabato su Corriere della Sera, no? E che lui di fronte a quella idea tardo-romantica che l'artista deve essere un malato, la chiama così, su Corriere della Sera, una splendida intervista. Invece l'ha rifiutata perché lui voleva certamente in primo luogo stare bene, voleva quindi curarsi e poi ha scoperto che essendo sano, essendosi curato, lavora anche meglio come artista che non prima che stava male, chiaro, ecco. E così è questo, ed è venuto fuori un gruppo di persone in cui è malati di me, mentre posso dire con tutta certezza, anche se non conoscevo le singole persone per nome, ma il gruppo che nel 75, 76, 77, che stava all'università, abbiamo cominciato l'università, Villa Massimo si chiamava questa sezione dell'università, dell'istituto di filosofia dell'università di Roma, era un gruppo di malati di menti gravi, residui del 68, residui del 68, e questo lo dice anche l'Alessandra Longo, che io ho cercato di mediare a questa storia orrenda del 68 che ha distrutto un sacco di menti e un sacco di identità, dimmi, volevi dirmi? Quindi è per questo che poi è venuto fuori anche questa nuova edizione del libro. Del libro, penso che il merito lo devo dare, non per amore, per generosità, ma credo anche per dovere, per realtà, a questo gruppo di persone anonime che magari sono venuti 20 anni fa, 30 anni fa, adesso non vengono più, o altri che invece praticamente c'entrerebbero meno, nel senso che sono venuti soltanto l'anno scorso, 2 anni fa, eccetera. Però è come se avessero seguito tutta la storia di 35 anni, ormai sono 35 anni. Sì. Fagioli, e lei ha i sogni, a chi li racconta? E io spero sempre di trovare una bella psicanalista a raccontarla. Io li raccontai un tempo e la feci la mia cosa, la mia analisi individuale, sì. No? Non ricevendo nessuna interpretazione, appunto. Ho dovuto un po' cavarmela e difatti poi ho fatto la teoria che se uno poi non è un malato di mente, l'analisi la può fare da solo, ma non da solo nel senso della masturbazione. Basta il rapporto, occorre un rapporto. Quando c'è un rapporto e uno riesce a vivere questo rapporto anche inconscio, non soltanto il rapporto lucido, razionale e freddo, allora puoi elaborare, ma non devi avere vuoti mentali, non deve avere un'affettività, non deve aver fatto troppe pulsioni di annullamento, perché quella che ho scoperto, che non è stata mai scoperta, è la pulsione di annullamento, e quella rende ciechi, cioè, e questo sto scritto in tutta la letteratura, in tutta la drammaturgia, la Tiresia, no? Non capisce niente e quindi non riesce a vedere. Finché si tratta di invidia, di rabbia, di ostilità, uno se la può elaborare, basta che ci sia il rapporto di parlare con qualcuno, che faccia un legame che non sia un legame razionale, ma sia un legame, direi, più che affettivo, di interno proprio, di coinvolgere la realtà inconscia, quella dei sogni, insomma. Certo. E poi se la può cavare. Penso di aver fatto così io, che io non ero malato di mente, non avevo questi vuoti mentali, questa cecità, per cui se l'è cavata, insomma. L'ho cavata perché il rapporto l'ho tenuto, e poi in particolare io dico sempre, non tanto con lo psicanalista, che proprio non capiva assolutamente niente, quanto tutto il più era una figura di padre, siccome era medico, se era un bravo medico, sì, un bravo cardiologo, eccetera. E allora sì, con le mie storie d'amore con le donne. Certo. È lì che mi sono giocato l'identità, mi sono giocato l'inconscio e pare. Ormai gli anni sono passati e ha funzionato. Se me la sia cavata, insomma, ormai non c'è più pericolo di perdersi. Professore, la ringraziamo molto, come sempre. Oh, scusa, ma mi dispiace di non aver fatto accenno a quei discorsi fatti con Pannella. Ma quelli sono... Questo legame con questa zona che dicevo di Salvemini, perché sento Radio Radicale la vostra, appunto, che lo ripete sempre. Certo. Rossi, Spinelli, eccetera, eccetera, il manifesto di Ventotene, perché questa adesso è un'attualità. Di rifare quest'area al di là del comunismo, beh, che è finito come è finito, ma al di là di questo liberalismo che mi viene a dire sta diventando perverso, è diventato, d'accordo, torneremo a parlarne comunque. Grazie a Massimo Fagioli, grazie a te. Buon lavoro, grazie. Grazie.